Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci caro Oscar Giannino. Eccoci. Buongiorno. Qua Alessandro Milan, cari ascoltatori, buon attenti a noi due, buona Radio 24, buon coloro che si chiamano Francesco e festeggiano oggi 3 dicembre. Sì. Francesco Saverio, che ha un nome appunto, perché incredibile. Un altro, non è il San Francesco. Francesco Saverio, però Francesco Saverio è gesuita, quindi è quello potente per questo. Soprattutto di sti tempi. Tant'è che basta che ti dico come si chiama Francesco de Castro Azpilicueta Atondo y Aznares de Javier. Questo è il nomino meglio Francesco Saverio. Però la verità vera, caro Alessandro, è che oggi è un altro santo, perché i politici sono in ginocchio in tutta Europa e venerano San Mario Draghi sperando che oggi decida di pompargli un bel po' di soldi e gli risolva il problema. Ecco, quindi è San Mario. San in realtà, Mario, San per Mario. Favore, pompa denaro a tutte l'ore. A tutti noi. A proposito di soldi. Abbiamo visto questa, visto che oggi avremo un ospite subito che di soldi e anche di questo tema potrà dire qualcosa. Hai visto quanti soldi si prendono i gruppi parlamentari? 53.350.000 euro l'anno. Hai visto quanti 53. Collaboratori negli staff che hanno? È proprio incredibile. 53 milioni l'anno. C'è poco da fare. Altro che il vecchio referendum, la volontà degli italiani, niente finanziamento pubblico. Prima è diventato il contributo elettorale, poi si dice che è sparito, abbiamo annunciato Renzi appena iniziò il suo governo, è sparito, l'abbiamo abolito in 3 anni col 2 per 1000. Mm-hmm. E però, come si vede, poi trovano sempre il modo di fare rientrare i danè. Sì, questi sono i gruppi parlamentari, cioè non i partiti, attenzione. Tra l'altro è un lavoro di Open Polis, che fa sempre degli ottimi lavori, delle ottime inchieste su questo. E, insomma. Ma a proposito di soldi, vogliamo parlare un po' dei soldi degli italiani. Perché oggi ci concentreremo, e se volete 800240024, su questa decisione, emendamento alla legge di stabilità, che vuole abbassare la soglia di 30 euro sotto la quale i commercianti possono per ora rifiutare di utilizzare la carta di credito. Non potrebbero più rifiutare, quindi in realtà dovrebbero avere l'obbligo di installare tutti, di avere il POS, di pagare le banche, la commissione, il canone mensile. Cioè l'idea è, sarà un futuro in cui pagheremo anche il caffè con la carta di credito, il giornale con la carta di credito, una spesa da €1, €1,50. E ci obbligheremo i poveri commercianti a pagare ancora di più le banche, il canone mensile, le cose. No, ti dico questo perché si introduce la sanzione nei loro. Cioè, un bel regalone alle banche. No, ma è chiaro. Cioè, ieri sono andato a prendere la pizza al mio pizzaiolo di fiducia. Ho detto: a me che me ne frega, tanto io sono 20 anni che ho il POS. Ma so di baristi che sono già sul piede di guerra. I baristi, per dire, quei commercianti che, dove le spese sono a volte molto limitate, i tabaccai, gli edicolanti. Edicolanti, tifo, perché senza di loro il nostro futuro diventa ancora più grammo. Il nostro futuro, intendo, non so, come italiani, dico come giornalisti. Cioè, perché sono arrabbiati? E sono arrabbiati perché su questi pagamenti si pagano le commissioni, ovviamente, alle banche. Ma l'idea, credo almeno, anche perché se non le avessero, interviene una sanzione, diventa obbligatoria. È chiaro. Ma non solo, anche solo installare il POS dei costi, ovviamente. Ma l'idea è quella di abbattere tutti questi costi nel momento in cui si dovesse introdurre questa novità. Almeno ce la facciamo spiegare da colui che è l'autore di questo emendamento. Torna con noi, Sergio Boccadutri del Partito Democratico. Buongiorno onorevole, eccoci qua. Buongiorno. Come va? Buongiorno a voi. Bene. Tutto bene. Allora, lei ha mezzo mondo di commercianti che già la guardano con l'occhio un po' diffidente, diciamo così, per il momento. Che vuole affamare ancora di più il mondo del commercio? Allora, intanto un emendamento che nessuno conosce, l'IRA non è mia, la prima firma, che interessa molto i piccoli, insomma, le edicole in particolare e bar, per ridurre l'aggio per il cambio delle monetine. Voi non lo sapete, ma quando uno va con il carico di monetine e cambiarlo in banca c'è un aggio. E io dico questa cosa è insopportabile, perché comunque uno, quelle sono monetine, non capisco perché bisogna fargli pagare. Gli dà qualcosa con una mano e gliela toglie con l'altro emendamento. Non pareggia. Allora, l'emendamento è molto semplice. Io sono perché ci sia una libertà del cittadino di pagare come vuole. Oh! Punto. Quindi nessun obbligo per i commercianti di avere. Nessun obbligo. La libertà è sempre. Allora, io sono addirittura, per me, questo emendamento così fatto, per me io sono perché non ci sia alcun limite sempre sulla gestione del contante, sul linea al contante. Perché il cittadino decide come pagare. Lei dovrebbe vedere la faccia che ha fatto Lio Milan. No, ma sempre. Perché una volta che se uno vuole fare l'evasore lo fa 1.000, 3.000 e 10.000, punto. Adesso diciamoci la verità. C'è tra l'altro una direttiva europea su antiriciclaggio che sta ponendo un limite massimo comunque a livello europeo. Per me, se la mettiamo a libertà in mano al cittadino, il cittadino può decidere di pagare con i contanti, con la carta di credito, con la carta di debito, con lo smartphone, con tutte le altre piattaforme che stanno adesso nascendo. Per me è appunto la libertà di scelta del cittadino, e bisogna metterlo in condizione di scegliere, perché ognuno decide se uscire con 10 euro in tasca o con 1.000 euro in tasca la mattina. Questo è il primo punto. E per questo i 30 euro non hanno più senso, perché da una parte gli stessi che hanno certamente applaudito ad aver tolto questo limite di 1.000 euro in contanti, non è che però possano decidere loro per il cittadino come è meglio pagare. Va bene, però qui onorevole Boccadutri c'è questa questione dei costi, le commissioni. Ci arriviamo. Seconda questione, ovviamente questa libertà non può essere bloccata, appunto, e quindi la sanzione serve a renderla effettiva. Diciamo che però la libertà e la sanzione è una contraddizione ad ecto. Se lei impedisce a un cittadino di fare ciò che insomma è riconosciuto, qualcuno deve pur provvedere affinché questo esercizio di diritto sia garantito, e come si fa altrimenti? Anche i sistemi liberali. Ma no, perché lei dice garantito, mentre invece un servizio a triplo titolo oneroso, installazione, canone mensile e sulle transazioni, ed è di mercato così, e se lei lo stabilisce per legge vorrà dire che comunque entra a gamba unita nella legge, eccetera, no, eccetera. No, ma non è così, perché i dati però ormai sui costi del posto ci arrivo, i dati nostri sono addirittura inferiori a quelli di altri paesi, quindi non è così. No, però Boccadutri, mi scusi, perché adesso ce lo spiega bene. Se dovesse esserci questa norma, mettiamo un edicolante, domani dovrà mettere il posto, e fino a questo momento non ce l'ha. Dovrà fronteggiare dei costi per questo, saranno i minori rispetto agli altri paesi, ma dovrà fronteggiarli questi costi. Dovrà fronteggiare i costi, ma avrà dei vantaggi. Ad esempio, ripeto, il rischio della rapina, il rischio del furto, ma noi non consideriamo i costi del contante, sono invisibili. Ma sai quanti edicolanti sbagliano e dai il resto e quanto ci perdono? Poi ma quanto tempo perdono? No, cioè, il pizzaiolo mi ha detto proprio. Ma si immagina la gente che chiede il caffè ma anche lei entra in un bar al mattino alle 8 che sono tutti di fretta, no? E questo dice devo pagare con la carta di credito, ci vuole una persona lì giusto che fa i numeri. Per fortuna la tecnologia ci aiuta, perché da questo punto di vista ormai ci sono delle tecnologie cosiddette tap and go, e comunque guardate che questa cosa sui 5 euro produrrà un'esplosione di altri attori che stanno entrando ora adesso con la nuova direttiva che sta per essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale, che fanno un servizio P2P velocissimo, un messaggio istantaneo, perché è tutto evidente che io non posso aspettare connessi a un'autenticazione e autorizzazione e lo capisco pure io, ma infatti qui sotto i 5 euro vedete che ci sarà un'altra evoluzione dei pagamenti via smartphone, diciamolo chiaramente, ci saranno la svolta, sono totalmente d'accordo, ma infatti come vede, perché non è che io sono un preistorico che pensa portarsi dietro delle tonnellate di monetine, no, è il contrario, però il problema è che la libertà di mezzi di pagamento per qualunque cifra sacrosanta, secondo me bisogna bypassarlo questo, è l'architettura degli intermediari italiani, cioè la piattaforma vecchia, l'intermediario bancario che imponevano i tre canoni, ripeto, installazione, mensile e quello sulle transazioni, che è quella che va ripensata, e credo che la sanzione a carico degli esercenti sia un po' preistorica. Quando lei dice bisogna avere il sistema a pagamento direttamente con lo smartphone, il che significa evitare il tempo dell'operazione all'esercente, quando la tecnologia tra poco. Ma c'è già in altri paesi, quello è il punto a cui bisogna arrivare, che significa non obbligo di costi per l'esercente, non obbligarlo a perdere un mucchio di tempo per ogni operazione, perché ogni strisciata al posto, ogni cosa, devi fare il codice, non funziona. Il giornalaio la mattina in 2 ore la mattina ha una alla fila della gente, poi non ha più nessuno. È chiaro. Ah, per essere chiaro. Se mi si mette per ogni operazione. No, ma lo dico in concreto. Però, onorevole Boccadutri, risponda a tanti messaggi che stanno arrivando. Guardi, il più tenero è: questo sta con le banche. Questa è un'ascoltatrice, Mara, ci scrive: questo sta con le banche. Ma la dichiarazione di Patuelli è stata molto freddina su questo punto, quindi io non lo so se sta con le banche. Patuelli ha detto: ah, attenzione, vediamo, c'è il regolamento europeo. Quindi da questo punto di vista. Ma che c'entra? Ma quando si è d'accordo con qualcuno non si va mica d'accordo in pubblico, quando si è d'accordo sotto banco. No, no, guardi che questo emendamento è un emendamento che ovviamente rompe un sistema. E voi dobbiamo vederlo proprio in un altro modo. Ed è tutto ovvio che andiamo per il futuro dei pagamenti è immateriale. Certo. Ma poi in un paese dove l'80% delle transazioni è cash, francamente, poi c'è anche spazio per tutti da questo punto di vista. Sì. E c'è anche spazio per marginalità. Ci sono dei prodotti ormai che sotto i 10 euro, io adesso non voglio fare pubblicità a nessuno e non vi dirò di prodotto. Chi si tratta, di prodotti che sotto 10 euro hanno commissione zero per il merchant e sopra 10 euro hanno una commissione fissa, qualunque sia la cifra, di 0,20 centesimi. Ora, il problema è che fino a quando mettiamo in testa agli italiani che è conveniente utilizzare questi strumenti, anche il merchant non avrà nessun interesse, il merchant, il commerciante di qualunque esso sia, avrà poco interesse a dotarsi. Ma il vantaggio qual è? Ce lo spiega, non è certo così che si combatte l'evasione, cioè facendo pagare il caffè. No, con ecco. Allora, qual è il vantaggio? Il vantaggio è ridurre il costo del contante, che ha costi visibili e invisibili. Quelli visibili sono calcolati in 10 miliardi di euro l'anno. Quelli invisibili purtroppo sono le rapine, chiaro. Questo sicuramente, cioè gestire meno contanti. Ma l'abbiamo visto appunto anche cosa è successo altre volte a Bari, sparatorie per la strada, gente che può rimanere. Ma noi davvero nel 2000, io non dico cancelliamo il contante, io sono per la libertà. Se una persona vuole pagare, vuole uscire da casa con 5 euro in tasca, deve essere messa in condizioni di poterlo fare. Ma del resto, in Italia abbiamo 1.850.000 post, i post ci sono, non transano, quindi anche questa fallisce. Le nuove installazioni, i post ce l'hanno tutti ormai, ma un bar che lavora con i buoni pasto c'è pure un post, perché adesso c'è anche la defiscalizzazione dei buoni pasto elettronici. Sì. Ora, francamente, l'infrastruttura esiste, il problema è più culturale. Lei dice c'è una resistenza cittadini. Culturale. Esatto. No, ma devo dire che Oscar, molti messaggi arrivano via WhatsApp, dicono in gran parte del mondo già certo. Questo si fa, si paga il caffè, si paga la piccola ma spesa. Nel caso italiano il ritardo è quello dell'integrazione verticale e orizzontale tra gestori del traffico telefonico, soprattutto mobile, e piattaforme di garanzia dell'operazione finanziaria. E questo è il motivo per cui se vai in alcune grandi città europee con il telefonino puoi pagare dal parcheggio pubblico ai trasporti pubblici tutto con il tuo coso del telefonino abilitato. È lì che siamo indietrissimo. Ma questo sarà il futuro. Questo spinge questa cosa qui, perché se faccio un'operazione sotto i 5 euro sto lavorando esattamente per spingere su quello la multa all'edicolante non c'entra niente, lo sa meglio di me multa, che è così. Ma la multa è per dire se c'è, bisogna fare una cornice che funzioni, poi la multa sarà correlata ovviamente, non è che io non ho scritto quanto deve essere e così via, però è tutto evidente che il cittadino che vuole pagare effettivamente in quel modo non può sentirsi dire no, perché se no c'è una libertà che vale più, cioè la libertà del contante vale più di quello. Questo è vero, se il cittadino non ha in quel momento i soldi, deve spendere 10 euro, deve poter essere libero di poter spendere con la carta di credito, visto che ce l'ha la carta però di credito. Però io voglio essere libero, ma a quel punto mi accollano gli oneri col come funziona l'Italia. Ma è chiaro, perché il commerciante dall'altra parte, guardi, di Boccadutri, un tassista ci scrive a dire: se io metto il POS, una giornata di lavoro mi va per pagare il POS, una giornata al mese, me li paga lei, Boccadutri, chiede il tassista. Ma guardi, io non so dove è questo tassista. Io tutti i giorni prendo il taxi, sì, e pago con l'applicazione, sì, e sono contenti perché questi ci ho parlato molto. Non hanno il contante. Non abbiamo i soldi in tasca, non abbiamo qui, quando andiamo in certificazione non abbiamo più paura. Questa cosa qui è un punto di, cioè purtroppo è un fatto culturale. È culturale. Ciascuno ovviamente lo vede come vuole vedere. Spezzo una lancia in questo a favore di Boccadutri. Come ha detto prima, la cifra, l'80% delle transazioni, oggi lo scrive la stampa, 83, per la precisione, sono ancora col contante in Italia. E quindi culturalmente certo c'è un lavoro gigantesco da fare. Per cui quando arrivano queste proposte, dopo la Grecia siamo il paese OCSE con la maggior percentuale di milioni di italiani senza un qualunque conto, né in banca né in posta. Infatti moltissimi italiani di fronte a queste proposte dicono svengono come minimo e urlano. Per cui da questo punto di vista sono con Boccadutri, cioè almeno il tentativo di fare dei cambiamenti. Io sono per abbattere i costi di coloro che hanno una rendita nelle intermediazioni finanziarie garantite. Questo, in Italia c'è una rendita, la rendita riguarda le banche, le garanzie dei consorzi di pagamento, è una rendita, non è vero che in Italia sono più bassi i costi, sono più elevati, dei grandi paesi europei, voglio dire poi dei piccoli, ma dei grandi paesi europei li abbiamo più elevati. E dal punto di vista dell'infrastruttura tecnologica siamo enormemente in ritardo, pur avendoci la tecnologia, per fare interagire, ripeto, i gestori dei servizi telefonici con i garanti dell'intermediazione. Però vogliamo sentire qualche ascoltatore, Boccadutri, invitiamo anche i commercianti, soprattutto arrabbiati, a chiamarci, no? Così vediamo che succede. Antonio da Roma, buongiorno Antonio. Buongiorno, senta, volevo portare la mia testimonianza. L'altra settimana sono andato in tabaccheria. Dovevo comprare due marche da bollo, fare la ricarica al mio cellulare e comprare le sigarette, una spesa che era intorno ai 50 euro. Gli ho detto: ti posso pagare col bancomat? Ti dice sì, ma mi devi pagare la commissione. Ma come la commissione? Anche io ho detto sì, volevo la commissione. Cioè quanto voleva? Detto, quanto voleva? 50 centesimi. Allora voglio dire, dobbiamo mettere dei controlli, cioè perché non è possibile che io pago col bancomat e tu mi chiedi la commissione. Eh beh, questo effettivamente, ma cos'è? È un'usanza, un reato addirittura, Oscar? No, tu ne sai qualcosa? No, non è questa idea, però perdonate, ma cosa vogliamo pensare? Che rispetto agli oneri che incarico sull'esercente, l'esercente non li trasdi al cliente? Cioè, no, ma si ritraserà sul prodotto, non sulle sigarette che hanno il prezzo. Ma glielo dice pure esplicito. Posso dire? Questo glielo dice esplicito. Glielo dice esplicitamente, 50 centesimi in più. Altrimenti, anche se non lo dice esplicitamente, signori, guardate che implicitamente è ovvio che succede questo. Sì, però io posso aumentare. Siccome la marca da bollo ha un prezzo fisso, la sigaretta ha un prezzo fisso, la ricarica del cellulare è fisso, magari posso ricaricare sul crodino, per dire, no? Per fare un nome, se sull'aperitivo. Ma ricarichi sulle singole operazioni, perché ricarichi sul crodino? Non è, si vede che non sei proprio. È ovvio che capita questo. È ovvio, ripeto, il problema italiano è concentrarci su le eccessive rendite. È per questo che non si è mai esteso il sistema. Le eccessive rendite in chi nei diversi passaggi del pagamento elettronico, cari signori delle banche, cari signori del consorzio Cartasì, eccetera, eccetera. Questo è il vero problema. Quindi, secondo me, quel tabaccaio ha una pecca, che le ha detto la verità. Le ha detto esplicitamente: mi dà 50 centesimi. Bah. Vabbè, Daniele da Roma. Io, se trovo un tabaccaio che mi dice: prendo, dico, tenga le sue sigarette, tenga la marca da bollo, faccio 100 metri e vado da un altro. Io avrei fatto così. Fai capire a chi ci ascolta. La tua tesi è che a quel punto è giusto che il tabaccaio paghi questi oneri così elevati. No, non ho detto questo, se la libertà è quella di andare col bancomat, avere il bancomat, e per questo dover pagare 50 centesimi in più, la mia libertà va a farsi fottere. No, la libertà è sempre una domanda: chi paga, Alessandro? Questo vale per lo Stato e questo, infatti, vale, questa è privati. L'accusa che fanno a Boccadutri, cioè di dire tutto il ricarico sui commercianti. Allora, Boccadutri, ci spieghi come abbassa queste commissioni, perché ha sentito l'ascoltatore. Il fatto che purtroppo il commerciante ha fatto una cosa che è vietato dalla legge in due disposizioni. Uno è il codice non sono sceso da Marte, allora. No, è il divieto di surcharge, che è proprio esplicitato per dire cioè il commerciante non può applicare una commissione per determinati strumenti di pagamento. Questo è dato sia sul decreto legislativo che ha recepito la prima direttiva sui pagamenti, che è dal codice del consumo. Seconda questione, il regolamento europeo. Dopodiché, visto che l'accusa è scendere da Marte, secondo lei il ricarico avviene oppure no? Mi sta rispondendo, ma il ricarico avviene oppure no? Ma i conti di un tabaccaio li abbiamo mai visti nella vita o no? Ma perché sennò. Lei però. Allora, il regolamento europeo che entra in vigore il 9 dicembre riduce le commissioni interbancarie allo 0,3% sulle carte di credito e allo 0,2% sulle carte di debito. Domanda alle faccio del dottor Vignone: secondo lei questo risparmio, che è tutto del commerciante, sarà condiviso col consumatore e vedremo una riduzione dei prezzi? No, è tutta una misura. Quindi lei parte dal pregiudizio che siccome non verrà traslato io li sanziono. Allora la scopriamo qual è la mentalità. Ma che c'entra la mentalità? Ma non sarà così. Ma giustamente questa è una forma che serve a rendere più accettabile e ridurre il costo per il commerciante, e quindi questo sarà. Ma francamente, ma perché dobbiamo prenderci in giro? Ma il contante costa. Allora, non prendiamoci in giro, tutto costa, anche il contante costa. Just. E francamente 166 euro l'anno, ciascuno compresi i bambini. e io che non uso il contante pago questa tassa, perché la pago pure io che non uso il contante. Sì. Allora, siccome è così, siccome però si gestiva un sistema di pagamenti ha dei costi materiali, in Italia le frodi sono pari allo 0,019% del transato, meno che in Inghilterra. Sì. Ha dei costi questa cosa qui. Ma naturalmente quelli, ci sono molti commercianti risparmiano costi di assicurazione, costi di avere una cassaforte. Cioè ognuno. Sì, sì, no, ma è chiaro, vantaggi, vantaggi. Ora, francamente, vantaggi, io sono d'accordo con Genio su un punto. Troviamo un equilibrio. Ma francamente, tutto qua, però. Tutto qua. Però non vietare questo. No, però Bocca Dutri, si fermi un attimo, perché dobbiamo andare alla pubblicità qualche minuto. Siamo in ritardo. Se può stare con noi, ci fa un piacere, perché vorremmo anche parlare di questa cosa dei partiti e dei soldi. Ci sono tanti ascoltatori, quindi se può stare con noi siamo molto contenti. Un attimo di pubblicità e rientriamo. State ascoltando un programma offerto da San Martino di Castrozza, Passorolle. Spettacolo e avventura tra le Dolomiti. Allora Oscar, ma tra l'altro passerà questo emendamento, perché ieri tu hai avuto Zanetti, sottosegretario del MEF, e qua insomma io leggo, è sempre con noi Bocca Dutri. Sì, sì, sì, come no. Eh no, perché volevo leggerle ieri a Radio 24, appunto, il sottosegretario del Ministero dell'Economia e Finanze Zanetti ha detto, ma questi emendamenti che pongono sanzioni per gli esercenti che non hanno il POS non rientrano nella linea che stiamo portando avanti. Sono abbastanza convinto, ha aggiunto, che un emendamento del genere dal governo verrà restituito al mittente. Opinione personale, mentre dall'altra parte, per esempio, presenta la commissione Boccia, ha detto no, un emendamento di civiltà, lo sosterrò, eccetera. Ma passerà, il governo vi dirà di sì? Cosa dirà il governo? Vedremo. Lei dice vedremo. Vedremo. Un po' di suspense. Vabbè, allora nel salutarla ci dica che cosa ne pensa a leggere che 53 milioni di euro degli italiani vanno ai gruppi parlamentari ogni anno. Lei che è stato tesoriere di un altro partito. Una battuta velocissima. L'80% di questi fondi serve a pagare le persone che studiano i provvedimenti che il governo propone, che ha invece un esercito di funzionari. Come facciamo noi parlamentari a studiare ogni singolo provvedimento senza delle persone che supportano in questo lavoro? Quindi questa è ancora una Repubblica parlamentare. Ora, francamente, nella dialettica parlamentare del governo ci vuole anche che poi chi vada a fondo. Io non ce la farei da solo senza appunto l'apporto di queste persone che fanno un lavoro. Servono questi soldi. Vabbè. Ma scusi, lei non ha un'indennità, lei come parlamentare, non ha un'indennità infatti, per i collaboratori? Ma infatti io... Ce l'ha come parlamentare, i soldi dei gruppi sono in più. No, ma io infatti ho una bella. Quindi la sua domanda, la risposta è: lei ce l'ha i soldi per pagare i collaboratori? Ma io pago una persona. Ah, ecco. Mentre, attenzione, che mi segue anche l'attività politica. Cioè, poi ci vuole anche. Francamente. La politica. No, ma lei ci ha detto che altrimenti senza collaboratori. Lei l'indennità per i collaboratori ce l'ha. Uno per uno. E lo pago. Ho capito. Ma viene di verità. Questi sono i soldi più ai gruppi, in cui i gruppi mettono lo staff dei partiti. Ma i gruppi fanno un lavoro per i gruppi e fanno lavoro su tutte le cose. Il collaboratore del deputato lo segue sulle iniziative personali, gli segue la comunicazione, gli segue i soldi, gli segue il territorio. Vabbè, insomma, diciamo la politica costa. Ma io pago come sempre. Comunque, onorevole Bocca Dutri, la ringraziamo per essere stato con noi. Partito Democratico, grazie. Sentiamo davvero un po' di ascoltatori, come sì. Da dove iniziamo? Treviso? Tiziano? Buongiorno Tiziano da Treviso. Sì, buongiorno. Niente, io volevo portare la mia voce relativamente al discorso della libertà di pagare in tutti i modi. Sono perfettamente d'accordo, ma da quando io ho il POS in studio ho circa 400-500 euro all'anno in più da pagare. Da chi vado io? Li faccia pagare al cliente come il tabaccaio, no? Milan lo dice con un tono come dire state derubando. Perché ma chi state derubando? Hai il difetto di tutti i lavoratori dipendenti. Li capisci. Autonomi. Ma che non li capisco, capisco benissimo. La domanda a Tiziano benissimo. A chi paga? Ci deve rimettere di tasca sua? No, perché io vengo da Marte, io non frequento il mio edicolante, il mio tabaccaio. Ma stiamo facendo una parte. Ma certo, però è chiaro che, voglio dire, la mia era una battuta, sto dicendo che sono d'accordo col commerciante che dice perché li devo pagare io, dall'altra parte sono d'accordo col cliente che dice perché li devo pagare io. Esatto. Quindi ognuno, come si diceva ieri, visto dal proprio punto di vista, ha la propria, allora, la propria, il politico verità. Deve trovare una soluzione che equilibri la libertà non a pagamento di qualcuno per l'esercizio della libertà di un altro, che ci deve rimettere. Infatti temo mio... che non sia la logica di questo emendamento, ho già tentato di spiegarlo. Esatto. Ma non voglio dire come il mio fate pagare il cliente era un'ironia amara. Certo. Per stare né dalla parte del dalla parte sia del cliente che del commerciante, che ha le sue ragioni. Daniele da Roma, buongiorno Daniele. Sì, buongiorno, vi saluto dal più grande social network del mondo, grande raccordo anulare. Bellissima definizione. E quante ore ci passa su questo gran social network, caro Daniele? Circa 3 al giorno. 3 ore al giorno, vabbè. Mamma mia. Ho subito a tempo indietro una condanna e passerò tanti giorni della mia vita rinchiuso in questo anello che gira. Un girone dantesco, proprio un girone dantesco. Ci faccia mezz'ora d'aria, esca un attimo e poi rientra. Aria buona. Ci sono, ormai conosco anche le persone che passano, ogni giorno si interloquiamo attraverso i finestrini come i sordomuti. Una cosa, secondo me il problema è molto al di là delle spese, dei costi che dovranno decidere come gestire, è un problema molto culturale, basti vedere le percentuali del nostro no cash day, e un problema anche di tempistica, quello che diceva prima anche il dottor Milan riguardante il giornalaio piuttosto che il barista che la mattina presto in un quarto d'ora batte 150 scontrini, se dovesse passare 150 POS la fila arriverebbe sulla corda anche a piedi. Oppure sarebbe costretta a assumere una persona, per dire, un collaboratore. Sì, quindi probabilmente l'evoluzione elettronica che già ci abbiamo a forza non si volti da fuori e la cultura delle persone, che proseguiamo sempre ad essere forse gli ultimi, qui Giannino mi potrà aiutare sulle statistiche del No Cash Day, sono le cose secondo me più importanti. Poi i costi, le spese, queste sono, secondo me sono cose che si possono sicuramente aggiustare, tanto se ci fanno pagare qualcosa in più noi siamo abituati, paghiamo tutto. E quella, la cosa su cui poter investire secondo me è quella, proprio la cultura dell'utilizzo. La cultura, è una questione culturale, come diceva Boccadutri. Oscar. No, beh, sono d'accordo, sulla cultura sono d'accordo, però gli oneri e le rendite, il problema è che io non parlo degli oneri perché parlo del fatto che c'è gente che ci fa soldi che non dovrebbe su queste cose. Quindi per esempio le direttive che abbassano i costi di transazione sono perché per anni in realtà gli intermediari hanno fatto rendita su questo e ripeto, con via di accordi diretti tra gestori telefonici e piattaforme di pagamento gli oneri non dico presso che scomparirebbero ma diventerebbero frazioni di centesimi proprio. Tra l'altro Oscar, abbiamo parlato molto di questo tema, oggi sui giornali ci sono tante altre notizie. Una riguarda, visto che ne hai parlato soprattutto tu nei giorni scorsi, la questione dell'emendamento, si parla di emendamenti alla legge di stabilità, l'emendamento che darebbe 3 milioni di euro per una ricerca specifica. Che proponeva, sì, una ricerca scientifica per l'attribuzione di questo fondo, cioè il sostegno a questo progetto di ricerca, il professor Pierangelo Vescovi. Sì, sì. Che in pratica ha rinunciato, cioè diciamo, ha detto sì, non li voglio più. Ha detto non li voglio più, non è un'iniziativa che nasce da me. Cari signori, e soprattutto non confondetemi con Vannoni, gente che non ha rango, il prestigio, le pubblicazioni scientifiche. Io quindi, per favore, io faccio il mio mestiere di scienziato e levatemi da questa roba qua. Secondo me bisogna rendere in atto anche con profondo rispetto. Per così anche dire. Se rimane la perplessità, diciamo, di come fosse nata la vicenda, cioè di una politica che decide che cosa sia scienza e che cosa non sia scienza. Una politica che crede di iscriversi gli scienziati, questo è il punto, di cui il compito non è questo, perché finanziamenti ai progetti di ricerca si danno secondo criteri di esame e di valutazione del peso, dell'impact factor dei progetti scientifici, però i politici tentano di arruolare tutti, come è noto, quindi per una volta diciamo viva il professor Pierangelo Vescovi che dice signori io con le vostre beghe non c'entro, non voglio c'entrare. E questi 3 milioni non è, quindi ci ballano 3 milioni. Bene, si potrebbero utilizzare per qualche altra credo cosa. Credo che siano spariti nel momento stesso in cui il professor Vescovi ha detto io no, grazie, va bene. Servivano 3 milioni di là per sistemare questa cosa, di questo interesse di quest'altro politico. No. Anche perché nel frattempo, come hai visto, il governo adesso vuole rifondere gli azionisti, si è reso conto che con questo salvataggio bancario all'ultimo secondo di 2 domeniche fa, adesso ci sono a cui centinaia di migliaia di obbligazionisti e... il governo inizia a dire vi vogliamo aiutare ma non sappiamo come fare, non possiamo come fare. Insomma, il governo un po' di incompetenti sotto questo punto di vista, come hanno gestito sta partita. Allora, ovviamente le telefonate sono tantissime, tutte su questo tema, il posto, i contanti. Sentiamo Giuseppe che ci chiama da Milano. Giuseppe, che ci vuole dire? Buongiorno. È un, non ho fatto ipotetico o teorico, ma ho fatto accaduto, capitato a pratico. Ieri. Sì. Pratico. Ieri sono andato da un ferramento, ho comprato due viti, spesa 1,50 euro. Io ero in coda, faccio la mia coda, lei sa dai ferramenti che oramai è una cosa terrificante. E quando deve pagare? Quando deve pagare pago con la banconota da 5, avevo solo 50 euro, non avevo moneta sufficiente per 1,50 euro. Non hai il cambio. Questo mi dice no, il resto. Dico, vabbè, pago se vuole, pago col banco, ma perché non... Sì. No, mi dice, per amor di Dio, gliela regalo, perché... Se faccio passare il bancomat con le commissioni, faccio una vinta sotto costo, se ci metto il tempo, la strisciatina eccetera eccetera, mi costa meno regalargliela che non passare l'operazione regolarmente. 1,50 euro. Credo che l'onorevole Cadutri avesse potuto impiegare in modo più proficuo il tempo che non pensare a questo. È chiaro, non è che però tutti quelli che si presentano per 1,50 euro la ferramenta regala a tutti, perché sennò fallisce nel giro di un mese. Ma forse in questo caso avrà detto: guardi, mi costa di più perdere del tempo, mi costa di più la commissione, tenga queste due viti. È chiaro che però se entrasse per tutti, caro Oscar, non è che l'edicolante ogni giorno può pagare 1,50 euro, regalare il prezzo di un giornale al primo che arriva. No, quindi o all'edicolante gli diamo un sistema nel quale telefonino dell'acquirente si appoggia lì e c'è la garanzia del pagamento effettuato. Cioè, per lui significa né tempo né un margine di onere. Sì. Oppure questo obbligo, la mentalità di obbligare, non andrà da nessuna parte. Io lo dico essendo a favore dell'estensione della libertà dei pagamenti, però la mentalità di dire o mi metti in posto e paghi tu o altrimenti niente, io ti sanziono, è l'impostazione sbagliata. Sì, no, comunque vedremo se questo emendamento poi passerà, perché non si sa. Allora, Lorenzo Nespoli, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione, Peter Bescapè in regia, a loro i nostri ringraziamenti come sempre. E caro continuate sulla 24, soprattutto pregate Mario Draghi, perché da quello che decidono oggi si decide molto del vostro reddito l'anno prossimo. Alino e Giannino, e come quel gattino che di primo mattino ti viene vicino e poi...